perfetto giorno di Simone Spezia. Non è stato convalidato il fermo di Amedeo Mancini, l'uomo che ha ucciso un richiedente asilo nigeriano. Voglio regalare i miei beni alla vedova, dice intanto l'uomo. Si riunisce l'Eurogruppo al centro dell'incontro le banche, Deutsche Bank, intanto chiede un fondo europeo per salvare gli istituti di credito. Rifiuti salta lo sciopero dei netturbini, ma a Roma restano i problemi. Sanzioni per chi sporca e cassonetti videosorvegliati, dice la sindaca Raggi. Negli Stati Uniti resta alta la tensione, proseguono gli arresti dopo la strage di Dallas, proteste a Baton Rouge, attesa per Obama in Texas. Si riaccende la guerra civile in Sud Sudan, almeno 300 morti in poche ore, migliaia di persone in fuga a Juba, più di un centinaio di italiani. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche il nostro canale Telegram, nel quale potete trovare le anticipazioni, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque torniamo a Fermo, perché sono arrivate notizie proprio in questi istanti che riguardano la posizione di Amedeo Mancini. Roberta Pellegata, buongiorno. Buongiorno, sì, il GIP di Fermo Marcello Caporale non ha convalidato il fermo di Amedeo Mancini, ma contestualmente ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'ultrà che era indagato per omicidio preterintenzionale aggravato dall'odio razziale per la morte del giovane nigeriano Emmanuel Kidi Namdi. Lo ha reso noto poco fa il difensore di Mancini, l'avvocato Francesco De Minicis, che non ha ancora avuto il tempo, però ha fatto sapere, di leggere l'ordinanza del giudice e le motivazioni della decisione. Quello che si sa è che Mancini, durante l'udienza nel Tribunale di Fermo, ha confermato la sua versione dei fatti, ammettendo di avere chiamato la moglie di Emmanuel scimmia africana e di essersi difeso con un pugno quando il giovane nigeriano lo ha aggredito, ma ha sottolineato: non avevo intenzione di uccidere. Sempre a quanto riferito dal suo legale, Mancini ha anche espresso la volontà di lasciare i suoi beni alla vedova. Allora sentiamo l'avvocato De Minicis. Non ha mai avuto una lira, è un uomo che sta anche lui tra gli ultimi della terra, e ha detto che l'unica cosa che ha, che è un terzo della casa colonica e della poca terra che gli ha lasciato il padre, è a disposizione della vedova di Emmanuel. Lui nega la sua responsabilità giuridica nel suo modo e col suo linguaggio, però la responsabilità morale se la sente tutta. Intanto Cécile Kyeng annuncia che si costituirà parte civile al processo, così l'eurodeputata a Radio 24. Perché a mio avviso questo tema della violenza, dell'istigazione all'odio razziale, è una questione di dignità della persona, e quindi bisogna non sottovalutare i segnali e cercare anche di far capire l'importanza e le diverse responsabilità che da una parte sono politiche, sì, dall'altra parte sono responsabilità anche culturali. Così Cécile Kyeng, per il momento Simone tutto. E ti ringrazio, grazie alla nostra Roberta Pellegata. Su questo tema torneremo più avanti nel corso della trasmissione e nel corso del nostro consueto giro per l'Italia, per cercare di capire se ne sapremo qualcosa di più in merito appunto alla decisione del GIP di non convalidare il fermo di Amedeo Mancini. Veniamo all'Europa e alle banche. Oggi si riunisce l'Eurogruppo, anche se non all'ordine del giorno, il tema sarà ampiamente presente. Teresa Trillò, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Sì, come hai detto tu, oggi e domani sono in calendario le riunioni sia dell'Eurogruppo sia dell'Ecofin. Sono due appuntamenti importanti per il sistema bancario. Il tema delle crisi delle banche e dei crediti in sofferenza da smaltire non è ufficialmente all'ordine del giorno di queste due riunioni, però i ministri dell'economia e delle finanze dei paesi europei affronteranno il problema. Il governo italiano ha più volte ripetuto che non esiste un caso Italia in Europa, perché il tema delle sofferenze bancarie coinvolge anche altre banche. C'è un confronto in corso con la Commissione europea per mettere in sicurezza le banche italiane, fra le quali Monte Paschi Siena. Nei giorni scorsi la Banca Centrale Europea ha chiesto una riduzione di 10 miliardi lordi di crediti deteriorati all'istituto senese, e la discussione in Europa è sulle conseguenze a carico dei risparmiatori nel caso di un intervento dello Stato, e di questo appunto oggi e domani si discuterà e si cercherà una soluzione al problema. E per questo momento è tutto da Roma, a te la linea. Grazie Teresa Trillò per questo aggiornamento. Intanto Deutsche Bank sembra appoggiare l'iniziativa italiana. L'idea arriva proprio dall'austera Germania, dalla fragile Deutsche Bank, come l'ha definita pochi giorni fa il Fondo Monetario Internazionale. In un'intervista a Welt am Sonntag, il capo economista della banca tedesca propone un maxipiano da 150 miliardi di euro per gli istituti di credito europei da realizzare con risorse pubbliche e in deroga alle norme dell'Unione. L'Europa è gravemente malata, deve iniziare ad affrontare i problemi con rapidità. Attenersi strettamente alle regole causerebbe un danno maggiore, dice David Volker Landau, convinto comunque che ora le banche siano più solide rispetto al 2008, anche se da inizio anno il settore in Europa ha perso circa il 34%, il titolo Deutsche Bank più del 48%, a preoccupare la mole di derivati ad alto rischio, 30 miliardi di euro in bilancio. Con un'esposizione in derivati pari a circa 15 volte il PIL tedesco, Deutsche Bank è la maggiore fonte potenziale al mondo di shock esterni per il sistema finanziario, scriveva l'FMI il 30 giugno scorso. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento, veniamo alla questione rifiuti a Roma. Collaborate, presto la città avrà un nuovo vestito. Fa appello anche ai romani il sindaco Virginia Raggi, alle prese in questi giorni con l'emergenza rifiuti nella capitale. In mattinata la prima cittadina ha fatto visita a Torbella Monaca, quartiere periferico dove è stato ripreso un video che sta facendo il giro dei social network. Nel filmato si vedono alcuni bambini che contano i topi vicino ai cassonetti della spazzatura. Dopo gli inviti a fare di più rivolti alla municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti, Raggi annuncia ora più controlli e multe più salate per chi sporca. C'è tanto da fare, c'è un piano a 360 gradi che deve andare a, come dire, prendere il luogo del nulla nel quale probabilmente si è trovata Roma in questi ultimi anni. Quindi, pur senza bacchetta magica, insomma, ce la metteremo tutta. Nella notte intanto è stato firmato il rinnovo del contratto di categoria e i sindacati hanno revocato lo sciopero degli operatori ecologici in programma mercoledì e giovedì, una protesta che rischiava di trasformare la capitale in una discarica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La politica con il referendum costituzionale ancora in primo piano. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, i sondaggi si sovrappongono, l'ultimo dà in vantaggio per un soffio il sì al referendum sulle riforme costituzionali, ma i no sarebbero in crescita, anche perché il voto sta cambiando di significato. Da prima doveva essere infatti il superamento del bicameralismo paritario, l'istituzione quindi del Senato dei 100 di consiglieri regionali e sindaci, la modifica sulla fiducia, l'abolizione del CNEL, ma è stato il Premier stesso a farne un plebiscito nei suoi confronti e così, per superare l'impasse, Matteo Renzi pensa allo spacchettamento dei quesiti. Certo che il taglio dei parlamentari potrebbe passare. Intanto si guarda alla legge elettorale, qui interviene Forza Italia. Va bene modificare l'Italicum, ma solo dopo il voto del referendum. Da sempre, dicono i capigruppo Brunetta e Romani, la nostra posizione cristallina è una cattiva norma che va assolutamente cambiata. Il cambio sarà quindi il premio di coalizione non di lista nel tentativo di frenare la corsa del Movimento 5 Stelle verso Palazzo Chigi. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Resta alta la tensione negli Stati Uniti dopo i fatti di Dallas e dopo le uccisioni di afroamericani da parte dei poliziotti. Ancora proteste nelle strade di molte città americane. Fermate e portate in carcere nella notte una cinquantina di persone sia ad Atlanta che a Baton Rouge, che fanno così salire a quasi 300 gli arresti di questi ultimi giorni. Nella capitale della Louisiana i fermati facevano parte di un centinaio di manifestanti diretti verso l'Interstate 110, probabilmente per tentare di bloccarla. Ed è stato liberato su cauzione, dopo l'arresto sempre a Baton Rouge, di Ray Mackeson, uno dei leader dei Black Lives Matter, giudicato un movimento intrinsecamente razzista e antiamericano dall'ex sindaco di New York Rudolf Giuliani. Nel frattempo a Dallas è atteso per domani l'arrivo del presidente Barack Obama, il quale incontrerà in forma privata i familiari dei poliziotti uccisi dal cecchino afroamericano che, secondo il capo della polizia locale David Brown, sembra stesse pianificando un attacco di dimensioni devastanti. Obama parteciperà anche ai funerali delle vittime insieme al vicepresidente Joe Biden e all'ex presidente George W. Bush, accompagnato dalla moglie Laura. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un risarcimento beffa perché le ragazze non indossavano le cinture. 70.000 euro decurtati del 25% è quanto ha proposto la compagnia assicurativa ai familiari delle 7 ragazze italiane morte in Catalogna il 20 marzo scorso. Lo ricorderete quando un pullman si è ribaltato all'alba tornando da una festa. 13 le giovani uccise tra i 19 e i 25 anni. Sentiamo Cinzia Zanaboni, uno degli avvocati che assiste i genitori delle vittime. la quantificazione del danno che francamente lascia perplessi tutti, intanto perché c'è un divario molto forte tra le valutazioni che vengono fatte secondo le tabelle italiane rispetto a quelle che vengono fatte secondo le tabelle spagnole. Sono quasi offensive quelle offerte, secondo le tabelle italiane sono quasi offensive. Ancor di più è stata fatta questa decurtazione giustificata dall'asserita mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Non è per le cifre in sé, è che questa storia, che è già tragica e agghiacciante, sta continuando a provocare amarezza e dolore da parte di tutte le persone coinvolte. Noi ci batteremo affinché i risarcimenti dovuti alle famiglie siano consone alla perdita inestimabile, per carità di Dio, che le famiglie hanno subito, perché oltre alla tragedia non si unisca la beffa. Andiamo all'estero, abbiamo parlato dell'Eurogruppo che si è occupato di banche, intanto la questione della Brexit fa sentire i suoi effetti anche sul fronte politico interno inglese. Sono due le notizie arrivate proprio negli ultimi minuti. La prima riguarda Andrea Leadsom, che ha deciso di rinunciare al ballottaggio per la leadership del Partito Conservatore con Theresa May, di fatto spianando la strada a quest'ultima per la successione a David Cameron alla guida del governo britannico, perché Theresa May rimane l'unica persona appunto in lizza. Dall'altra parte l'ex ministra ombra delle attività produttive Andrea Eagle, 55 anni, che è deputata da 24, ha lanciato ufficialmente la sfida per la leadership del partito laburista. Eagle è l'espressione dei deputati ribelli che intendono rovesciare l'attuale segretario Jeremy Corbyn. Ed è di nuovo guerra civile in Sud Sudan. Truppe ribelli sono tornate a combattere contro quelle governative fedeli al presidente Kiir. Gli scontri si sono concentrati nella capitale Juba. Dopo la battaglia di venerdì, nella quale hanno perso la vita 150 persone, c'è stato un nuovo bagno di sangue ieri. Il bilancio provvisorio parla di altre 150 vittime. Preoccupazione per i 126 volontari italiani presenti in città, che sono stati richiamati dalla Farnesina. L'aeroporto è però bloccato mentre in città si continua a sparare. Ascoltiamo la testimonianza di Simone Manfredi, operatore dell'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, che si trova proprio là. La situazione è che da un paio d'ore, cioè dalle 8:30 di stamattina, si sono intensificati gli scontri tra forze del governo e membri dell'opposizione attraverso l'utilizzo di armi pesanti come razzi, carri armati, e quindi e gli scontri sono ancora in corso, quindi in questo momento c'è ancora un po' di confusione, perché cioè, gli scontri appunto sono in corso, quindi non si riesce a capire le possibili dinamiche. Si parla sì di 300 morti all'incirca, tra cui una trentina di civili, però c'è probabilmente il numero più alto, perché le cifre non comprendono i numeri di ieri, non so, magari di oggi. E c'è ancora parecchia confusione da questo punto di vista. La situazione è complicata perché l'aeroporto è chiuso e quindi cioè, i voli di linea ovviamente i commerciali sono tutti cancellati, e quindi bisogna aspettare il momento giusto di magistrama per poter evacuare lo staff. E siamo qui, aspettiamo, cerchiamo di capire cosa possiamo fare. Per chiudere questa prima parte della trasmissione, cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo di calcio, ovviamente di europei. Giovanni Capuano, buongiorno. Sì, ciao Simone, buongiorno. Beh, oggi è il giorno dopo, è il giorno del delirio in Portogallo, della grande festa per un successo che non era mai arrivato nella storia del calcio portoghese, nemmeno con i grandi come Eusebio e Luis Figo, ed è invece arrivato a sorpresa ieri sera nella finale con la Francia, ed è il giorno del rimpianto per i padroni di casa che si sono visti sfuggire via un trofeo che sentivano loro. I giornali francesi questa mattina non usano mezze parole, parlano di pugnalata al cuore, parlano di delusione e attaccano soprattutto quelli che erano gli uomini più attesi della spedizione francese, dal CT Deschamps fino a Pogba, che viene giudicato tra i peggiori in campo. L'uomo del destino invece si chiama Eder Antonio Macedo Lopes, che prima di ieri sera con la maglia del Portogallo aveva fatto soltanto 3 gol, tra l'altro il primo all'Italia in un amichevole, e prima di ieri sera aveva giocato soltanto 13 minuti in questo europeo. È stato lui che nei tempi supplementari ha regalato il successo al Portogallo, transitandolo fuori anche dal dramma sportivo di aver perso Cristiano Ronaldo. A proposito, per Ronaldo ci sarà un mese di stop e quindi salterà anche l'inizio della prossima stagione. Ronaldo però che ha festeggiato ieri con le lacrime agli occhi il successo. Dicevamo, primo titolo internazionale per il Portogallo. La Francia aveva sin qui vinto tutte le volte che aveva giocato una finale in casa, europeo dell'84 e mondiale del 98. Alla Francia resta la delusione e si apre ora il dibattito sul futuro al Portogallo, che nelle prossime ore andrà in parata per le strade di Lisbona. Ci sarà soltanto spazio per la festa. A te. Grazie, grazie dunque a Giovanni Capuano per questo aggiornamento sul calcio. Giovanni Capuano che ritroveremo alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Il primo punto sulla mappa lo metteremo a Bologna, dove c'è un problema che riguarda la stazione, riguarda i facchini abusivi. C'è tutto un giro, a quanto pare collegato a tre famiglie, ma questo è tipicamente italiano, a quanto pare non si riesce a far niente se non multe da 17 euro. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte abbiamo parlato della non convalida del fermo per Amedeo Mancini, l'uomo che ha ucciso un richiedente asilo nelle Marche. Abbiamo parlato dell'Eurogruppo che oggi si occuperà di banche. Abbiamo parlato di rifiuti con la situazione critica a Roma. Abbiamo parlato di Stati Uniti e poi di Sud Sudan, dove si riaccende la guerra civile. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Il primo punto sulla mappa che trovate sul sito www.radio24.it, mappa nella quale raccogliamo tutte le storie che abbiamo raccontato anche in questi mesi. Il primo punto sulla mappa, dicevo, lo mettiamo a Bologna e precisamente lo mettiamo alla stazione di Bologna. Iniziamo da qua, da un capotreno che qualche giorno fa vede intorno al binario 8 quattro facchini abusivi che infastidiscono dei passeggeri, si avvicina e viene picchiato. Non è il primo caso. Nei giorni scorsi era successo ad una guardia giurata che da questi facchini abusivi aveva ricevuto degli sputi, era successo ad un poliziotto che aveva subito delle minacce. Il problema è che c'è tutto un giro, a quanto pare collegato a tre famiglie, ma a quanto pare non si può far nulla. Il massimo è una multa che va dai 17 ai 60 euro, ma questi sono tutti senza fissa dimora e quindi pazienza, si beccano la multa, se ne vanno e poi ritornano. Daniele Tissone, il segretario generale del sindacato di polizia SILP CGL, buongiorno. Tissone, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, buongiorno. Beh, a me una vicenda trovo abbastanza surreale, in tutta sincerità. Ma guardi, il problema degli abusivi e in stazione è un problema che da qualche tempo, sta avendo anche una serie di risvolti anche piuttosto inquietanti. Io non penso solo agli scali ferroviari, ma molte di queste aggressioni di cui lei ha parlato avvengono anche a bordo treno. Uno dei motivi per i quali la polizia ferroviaria segue le tratte, sia quelle regionali che quelle a più lunga destinazione. Quindi il problema riguarda le stazioni, ma riguarda, oserei dire, anche le persone che salgono a bordo treno e all'interno dei treni. Sono in aumento, in crescita, anche i fenomeni di aggressione, anche ai ufficiali, penso ai capistazioni, al personale viaggiante a bordo dei treni, e come vi è una difficoltà oggettiva, l'ha detto anche lei, rispetto all'abusivismo, che sono sanzioni effettivamente molto, molto irrisorie. E invece cosa diversa sono quelle comportamenti. Allora, aspetti un attimo, Tissone, aspetti, io la fermo e le dico: si sposti in un punto dove il cellulare prende in una maniera decente e poi la recuperiamo. Nel frattempo, mentre lei fa questa operazione, noi ci spostiamo dalla mappa strettamente italiana per andare invece su quella un po' più internazionale e occuparci di un'importante operazione delle forze navali ed aeree di EUNAVFOR Med, la missione europea contro i trafficanti di esseri esseri umani. Un'imbarcazione di scafisti è stata abbordata nel canale di Sicilia in un blitz, operazione che si è svolta sabato con la consegna alle autorità italiane di 3 presunti scafisti. Sono stati recuperati anche 146 migranti. Il comandante Antonello De Renzis Sonnino, che ne è il portavoce di questa missione, al microfono di Adriana Fracchia. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Via. Noi siamo in mare da parecchio tempo, quasi un anno, oltre un anno, 22 giugno del 2015 l'operazione è partita. Siamo passati in fase attiva dal 7 ottobre. Nel 2015 il mandato della missione ha avuto la possibilità di effettuare dei fermi in mare, in acque internazionali, di navi o imbarcazioni con sospetti trafficanti a bordo. Proprio lo prevede il mandato. C'è una risoluzione dell'ONU anche dell'ottobre che ci aiuta in ciò. E pertanto, insomma, abbiamo già arrestato, termine tecnico giusto, e consegnato alle autorità giudiziarie italiane oltre 70 scafisti. Quel caso di sabato mattina, che poi ieri insomma è stato reso noto, è un'operazione un po' più particolare, dove abbiamo avuto un maggiore sforzo di mezzi come coordinamento, e poi abbiamo quindi insomma preso questi 3 personaggi sospetti, attualmente nelle mani dell'autorità giudiziaria italiana a Catania, per i successivi diciamo approfondimenti giuridici. E questa era la voce, vediamo se abbiamo recuperato Tissone. Ci sente Tissone? Sì, ecco. Eccoci qua, Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia SILP CGIL. Qualche ascoltatore ci scrive: non si può far nulla, chi aggredisce o sputa un pubblico ufficiale viene arrestato in flagrante. In effetti la persona che ha picchiato il capotreno ovviamente è stata arrestata. Poi ci sono stati sputi nei confronti di una guardia giurata, non so se quella persona che ha sputato sia stata arrestata oppure no, però mi sembra, si diceva Tissone, che il problema resta, cioè una deterrenza che è minima rispetto a questi fatti. Ma diciamo che le sanzioni amministrative per l'abusivismo sono veramente irrisorie, a meno che, come diceva lei, non si tratti di comportamenti che hanno un profilo penale, rispetto al quale, dove c'è l'obbligatorietà o la possibilità di arrestare, prima di fermare, poi arrestare un individuo, come nel caso di Bologna del capotreno, allora si interviene. Dicevo anche che il problema non riguarda, ahimè, solamente le stazioni, c'è un'escalation che riguarda anche le aggressioni che avvengono a bordo treno e che possono riguardare pubblici ufficiali come i ferrovieri, il personale viaggiante all'interno dei treni. Quindi è un problema che va monitorato attentamente, rispetto al quale la Polizia di Stato, la specialità della Polizia Ferroviaria, si muove da tempo ormai all'interno dei treni e effettua una serie di scorte a bordo treno nei percorsi anche regionali, soprattutto nelle ore del pendolarismo, perché uno degli effetti anche più inquietanti sono le ore serali e le ore notturne. Ovviamente, Tissone, da cosa, perché cresce questo fenomeno? Cioè c'è comunque una sensazione di impunità, evidentemente, cioè nel momento nel quale ci sono, Bologna è un esempio, però come lei ha detto il tema è più largo, lei è come dire segretario di un sindacato nazionale e quindi ne sa, nel momento nel quale c'è solo la sanzione amministrativa, queste 20 persone al giorno che poi diciamo appartengono a 3 famiglie, non si sa esattamente, probabilmente su quello si starà indagando, si sentono libere sostanzialmente di fare quello che gli pare. Ecco, diciamo che il problema dei controlli, come già si stanno attuando in senso positivo nelle stazioni ferroviarie di Roma e di Firenze, dove non ci, dove sono state apportate anche delle migliorie con delle barriere, ha dato i suoi frutti. Nelle stazioni di passaggio, come ad esempio Bologna, che non sono terminali, è un po' più difficile dal punto di vista preventivo mettere in atto tutta una serie di accorgimenti, perché ci sono più possibili vie di fuga, c'è più una difficoltà oggettiva, di natura oggettiva, per poter controllare i barchi, le uscite e i binari. Questa è una difficoltà che può essere come dire superata da un maggiore numero di agenti, da un maggiore numero di controlli, penso anche alle guardie particolari giurate, perché è importante che la gente all'interno delle stazioni si senta sicura. L'altro aspetto invece che riguarda la legislazione, nel nostro paese sta operando una legislazione, anche una discussione molto garantista su quello che sono le norme. Pensi che anche sull'oltraggio e la resistenza pubblico ufficiale queste norme sono più garantiste rispetto agli altri paesi. Sarebbe bene che anche in questo caso il Parlamento riflettesse in merito alla depenalizzazione di taluni reati e in merito anche a dare delle sanzioni più severe nei confronti di queste persone. È anche vero che però c'è il grosso problema nel nostro paese del funzionamento della giustizia. Se noi riuscissimo a fare funzionare meglio e di più la nostra giustizia, la giustizia italiana, non sì. solo penale ma anche civile, forse la gente avrebbe una maggiore soddisfazione. Comunque mi spiega una cosa, tecnicamente Tissone, e brevemente che siamo in chiusura almeno di questa parte di trasmissione, in sostanza è prevista una sanzione, come abbiamo visto, tra i 16,60, poi queste sono le cose italiane, tra i 16,67 euro e i 60 euro, e vabbè, ma nel caso di recidiva non ci sono problemi, cioè questi possono di fatto continuare a beccarsi multe a nastro, non pagarle evidentemente, e poi continuare a presentarsi in stazione a fare questo. Purtroppo è vero che il regolamento amministrativo all'interno delle stazioni non è stato cambiato e quindi sono vigenti ancora le vecchie sanzioni amministrative, e che sono poco cosa dal punto di vista del deterrente per queste persone. Quindi ripeto, se a meno che non ci sia un profilo penale con un'aggressione, una rapina o un reato, effettivamente oltre alla sanzione non si può andare. E questo è il problema. Grazie Daniele Tissone, quello che volevamo evidenziare. Grazie Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia SILP CGL, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo come sempre per l'appuntamento con i mercati, e poi il prossimo punto sulla mappa, torneremo a Fermo e vedremo se riusciremo a capire qualcosa di più sulla decisione del giudice che ha deciso di non convalidare il fermo di Amedeo Mancini, accusato dell'omicidio del richiedente asilo nigeriano. A tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: non convalidato il fermo di Amedeo Mancini, l'uomo che ha ucciso un richiedente asilo. Voglio regalare i miei beni alla vedova, ha detto. Si riunisce l'Eurogruppo al centro dell'incontro alle banche. Deutsche Bank intanto chiede un fondo europeo per salvare gli istituti di credito. Rifiuti, salta lo sciopero dei netturbini, ma a Roma restano i problemi. Sanzioni per chi sporca e cassonetti video sorvegliati, dice la sindaca Raggi. Negli Stati Uniti resta alta la tensione, proseguono gli arresti dopo la strage di Dallas, proteste a Baton Rouge, attesa per Obama in Texas. Si riaccende la guerra civile in Sud Sudan, almeno 300 morti in poche ore. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Vi avevamo promesso un approfondimento su Fermo, ma pubblicità tiranna del resto è quella che mantiene in piedi questa radio che amate tanto, quindi è il momento di Mario Platero. Come sapete, la puntata del lunedì è un po' più corta, il momento di Mario Platero, ci risentiamo tra qualche minuto per i saluti e poi ci sarà autotrasporti a partire dalle 13:45.